Remake. Hello everybody and you're very welcome to questa edizione di Remake. Un bel domenica pomeriggio con il sole sopra tutta Italia, almeno voglio sperare, ci sta il sole dove mi trovo io. On controls abbiamo Aurelio e stiamo per ascoltare una bellissima programma di originali e poi versione cover, la musica del passato fatto in versione, visitato in versione moderno. Però allora torniamo indietro, ma molto molto tempo fa, 65 anni fa, un pezzo scritto da George Gershwin con sua moglie Ida. Questo viene dal play, dal spettacolo Porgy and Bess, The Voice of Billie Holiday with Summertime. Remake. Going to rise up singing.

Bobby Womack insieme a The Roots. Questa versione di Summertime, che viene dal 1998, è stato registrato per Red Hot and Rhapsody, dove tanti artisti hanno registrato dei brani di George Gershwin per la ricerca sulle AIDS. E prima di quello abbiamo ascoltato Cheap Thrills from the album Cheap Thrills, Big Brother and the Holding Company, la bella voce di Janis Joplin, che viene dal 1968. La seconda traccia che abbiamo ascoltato era Morcheeba with Summertime, chiaramente insieme a Hubert Laws, sempre dal Red Hot and Rhapsody 98. E intanto stavamo scalendo di 30 anni ogni volta qua, perché il primo che abbiamo ascoltato era dal 1936, and Billie Holiday facendo un bel versione di quel pezzo da Porgy and Bess. Allora, la versione di Janis Joplin veniva dal 1968. Noi facciamo una piccola pubblicità adesso e torniamo da un altro bel brano dal 1968 da Van Morrison. Remake. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, staring at the sunshine in the sweet summertime. The way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye. Back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime, on the day that young lovers do. Kiss you on the lips once more, and say goodbye at your front door. Live in the night time, yeah, that's the right time. Oh, to feel the way that young lovers do. And we sat on our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. And that you were for me. Oh, though we long to dance the night away, turn into each other saying I love you, baby I love you, all the way that you. Ecco, ma che voce che aveva Jeff Buckley, incredibile, cioè Aurelio di fronte a me, dicendo devi entrare, devi parlare, però un grande peccato tagliare al grande Jeff Buckley, che ha fatto dal vivo questa versione of The Way Young Lovers Do in febbraio 1905 at the Bataclan in Paris, France. E questo era un cover di Astral Weeks, il nome dell'album di Van Morrison, The Way Young Lovers Do, del 1968. You're listening to Remake. Voglio salutare Nick, che mi ha scritto, anche Betty, che si è messa in contatto, grazie di averci ascoltato questo pomeriggio. Andiamo avanti con una cosa che veramente non è che sia un remake, per dire, però a noi qua a Radio Kiss Kiss Network crediamo che i due dischi hanno la stessa base instrumentale, stessa melodia. Vedete, ascoltate, a che pensare voi, fatemi sapere. 348-661-9461 è il nostro numero di SMS. Ascoltiamo prima Godless from the Dandy Warhols e poi The Last Good Year, Day of the Year, Cousteau, tutti due dalle anno 2000. Arrivando any second now. Remake. Interstellar. Remake. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Remake. Interstellar. We'll be right back. living when the summer's so forgiving. Although we have stolen all of the things that we thought we had on them have disappeared. When the summer's light is fragrant with scents of returning, you relent, you resent, now you're burning, and nothing to change. There's something day of the year. Come oggi è l'ultimo buona giornata di Remake per questa estate, almeno è Cousteau, The Last Good Day of the Year. Secondo noi assomiglia molto, ma molto, un po' troppo forse, a Godless di Dandy Warhols che abbiamo ascoltato prima on Remake. Allora, andando avanti con The Beatles, perché The Beatles sono stati ispirazione per tanti, ma tanti covers, stiamo per ascoltare il demo di Something che George Harrison ha registrato da solo sul suo 26esimo compleanno, il 25 febbraio 1969, e poi subito dopo ascoltiamo la prima versione mai registrata in un studio completo, che sarebbe quello di Joe Cocker. Asking me where my love grows. something in the way she wooed me. I don't want to leave her now. You know I believe in I don't want to leave her now. You know I believe in love. You're asking me, well, my love, oh, I don't know, oh, I don't know. Just check around and hit me so. With Something, questo viene dal loro album Abbey Road del 1969 e ha detto Frank Sinatra che questo era uno dei brani più belli scritti dai Beatles. Prima di quello abbiamo sentito Joe Cocker che ha fatto un bel cover che l'ha registrato prima dai Beatles. Poi un po' di polemica per questo brano che stiamo ascoltando dal 1991. Non è proprio un cover, però sono stati citati in tribuna per aver forse copiato Something. Thank you. silenzio lì tra un brano e l'altro, perché stavamo ascoltando Something in the Way from Nirvana, from the album Nevermind 1991, e questo, come vi ho annunciato, un po' di polemica, perché non intendevo che sarebbe stato un cover di Something dai Beatles, però assomiglia molto. Intanto, essendo remake, noi vi vogliamo proporre un'altra versione adesso, una versione che è uscita quest'anno nel 2001, e praticamente sarebbe quella di Tricky di album Playback. Però prima, ragazzi, vi voglio dire che vi dovete mettere in viaggio, perché Radio Kiss Kiss Network vi porta nel futuro. Ecco il futuro con tutti i nostri jingle. Cerina, Testa Rossa e Raul girano l'Italia con un magnifico tour per farvi conoscere Final Fantasy, il film più atteso dell'estate. Seguite il tour targato Camel Urban Adventures by Echo. Potrete ballare, giocare, vincere. E poi Final Fantasy vi aspetta a Sant'Agata dei Gotti venerdì 20 luglio, intanto è andato quello. Prossimo tappo sarà domani, lunedì 23 luglio, a Salerno, in via Roma, attraverso Santa Lucia, Marina di Camerotta, mercoledì 25 presso il porto. E poi, ragazzi, prenotatevi subito il vostro gadget alle 081 631 631. Final Fantasy vi aspetta, parole di Camel Urban Adventures. E poi, ragazzi, come vi ho detto, ascolteremo Tricky dall'album Playback, Blowback, and Something in the Way, il suo versione cover. Però prima un piccolo pausa pubblicitaria. Remake. Underneath the bridge, lovers sprang a leak, and all the animals I have trapped have all become my pet, and I'm living off the grass and the dripping from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Something in the way. Quello è Tricky and Something in the Way, un bel versione del brano dei Nirvana che abbiamo ascoltato. E in questa versione c'è anche Hawkman che canta un po' con Tricky. Allora, remake, allora stiamo per ascoltare tre bei brani, tre bei versioni di una canzone che parla dell'amore. Siamo circondite dell'amore. Love is all around me. Here's the original, e poi arrivano due bel cover. The original comes from The Troggs. We'll be right back. Face before me. Dal 1994, il bel cover di Love Is All Around. Questo sono Wet Wet Wet, un gruppo scozzese with the singer Marty Pello, che adesso sta per fare una carriera solista. Allora, prima di quello scusate, Love Is All Around, prima di quello abbiamo ascoltato i REM, or EM, in concert dal vivo, e loro dicono che sono molto onorato del fatto che, anche se l'originale è stato dai Trogs, sembra che i Wet Wet Wet hanno scelto di fare un cover version della versione leggermente diverso che faceva i REM live in concert. E poi prima di questo mix abbiamo sentito l'originale del 1967, and that was the Trogs, quelli che hanno pure registrato l'originale di Wild Thing. Molto bello, Reg Presley il cantante lì, Love Is All Around Me, un bel brano per questo domenica pomeriggio on Remake. Hey ragazzi, you know what you say dopo Love Is All Around Me? Love's in need of love today. Here's Stevie Wonder. Remake. Like this. Good morning, evening, friend. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster. Could change your joy and laughter to tears and pain. It's that love in need of love today. Don't delay, send yours in right away. Hey, born round, yeah. bellissimo di Stevie Wonder dal 1976, from the album Songs in the Key of Life, un album che è stato appena ripubblicato, quindi se non ce l'avete nella vostra collezione andate subito domattina a comprarlo. That was the first song on the first disc, Love's in Need of Love Today. Noi adesso controlliamo un po' l'orologio e poi torniamo subito with George Michael. Questa versione che George Michael ci regala di Love's in Need of Love Today, che lui ha registrato nel 1987. Questo si trova sul B-side of the album Faith. You're listening to Remake, Fergal Cavanaugh on voice, Aurelio on controls. Adesso ragazzi speriamo che non piove, però raindrops keep falling on my head. Remake. Raindrops are falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling, so I just dig me some.

che viene dal film Butch Cassidy and the Sundance Kid, ma era registrato nel 1969. Allora, tutti quanti che sono free, non c'è niente che le dà fastidio. Magari se sei sdraiato al mare, tipo come Sergio al Zeffero giù in Calabria. Ragazzi, spero di venire a trovarvi presto. Pure a Marco che ci sta ascoltando, anche Luisa che mi ha scritto al 348-661-9461 e anche Rita che voleva mandare un bacio ad Antonio e dirlo che la ama tanto. Ok, remake andando avanti con la musica. Non è più Sunday morning, invece è Sunday afternoon, però nonostante tutto questi, come Lionel Richie and the Commodores, we're easy. Tutti easy come domenica mattina, anzi domenica pomeriggio in questo momento, come dice Lionel Richie con The Commodores dal 1977. Buon riposo, buon domenica pomeriggio dovunque che siete, ragazzi. Allora noi prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo con un cover da, sì, l'avete indovinato, From Faith No More. Spot time. Oh, st'estate ero al mare, no? Stavo nuotando, nuotavo e a un certo punto indovina cosa? Cosa? Il calamaro gigante! E nuotava proprio verso di me! E allora io ho cominciato a nuotare! Quest'estate vedi di avere qualcosa da raccontare! E se non ce l'hai, inventatelo! Con Blu, se attivi o ricarichi una carta Blu One e consumi almeno 50.000 lire tra luglio e agosto, da settembre hai 50.000 lire di telefonate gratis per raccontare le tue vacanze! Per saperne di più, chiama Blu al 198! Nucleo, stai calmo, un bel respiro e vai. Oh, oh. Troppo. Scusa. Allora, Cistone, cosa fai? L'aspetto in piazzetta e appena arriva le sussurro. Pasticcino, anche io una smemo che è tanto sola. Perché non le facciamo giocare un po' assieme? Sono troppo carine. Ma Nucleo, se ti regalo una matita, ti disegni il cervello. E tu? Hai una storia così da raccontare? Nel sito www.smemoranda.it c'è lo spazio per le tue storie. Collegati, raccontacele. Smemoranda. Tanta voglia di... San Benzan 2001. Il Casinò della Vallée presenta Concorso Nazionale Fotomodella dell'Anno. Vuoi essere la più famosa, la più fotografata? Partecipa alla 18ª edizione del concorso per una professione. Il Concorso Nazionale Fotomodella dell'Anno. Dal 10 al 15 settembre in Val d'Aosta. Per le selezioni nella tua regione, chiamalo 081 303 1166 e diventi Fotomodella dell'Anno. End of message. Yes, yes. Sei riuscito a incrociare una giraffa con un gatto siamese. Over my head. Beh, credi di essere speciale? Speciali sono le serie speciali di Fiat Collection. Punto Go Panda College Multipla Limited Edition 600 Brush e Barchetta Naxos. Vieni a vederle in tutte le concessionarie e succursali Fiat dal 9 al 14 luglio, dalle 9 alle 22. Ma fai in fretta, sono edizioni limitate. Questa sì che è una cosa speciale. Una giraffa e un gatto siamese. Ecco, quando c'è l'amore, no? Yes, yes. Remake. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Nel 1993 i Faith No More hanno registrato un EP di nome Songs to Make Love To, brani in cui si può fare l'amore ascoltandoli, e questo è stato Easy sul Qualo. Allora, grande, non lo so se di questa domenica pomeriggio state a fare l'amore, forse non è il caso, però sicuramente facendo l'amore sarebbe un modo perfetto di chiudere A Perfect Day from 1972. It's Lou Reed. Let's take it. Remake. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Che piacere per Lou Reed finire questo pezzo con sua voce Oh What a Perfect Day. L'ha scritto lui e l'ha registrato insieme a David Bowie nel 1972 e noi l'abbiamo ascoltato prima from the album Transformer. Ma adesso questa versione che abbiamo ascoltato è stata registrata nel 1997 for the BBC e loro beneficenza, il loro progetto di beneficenza Children in Need Appeal. Tutti i soldi è andato lì. Allora c'erano molti, ma molti ospiti su questa versione. C'era Lou Reed, chiaramente, anche David Bowie, Bono, Morcheeba, Elton John, Tom Jones, Brett Anderson, Dr. John, tantissimi, potrei dire i nomi all'infinito quasi. Ok, remake è questa domenica pomeriggio. Rimaniamo con la bella musica andiamo in Inghilterra questa volta, 1983. A voi ricordato Spandau Ballet? Certo, mi dicono che all'epoca erano annunciato in radio come, vediamo se le riesco a dire bene, The Spends, e così The Spends Untrue. 1997, The Influence hanno registrato questa versione of Rock With You e quello che abbiamo ascoltato noi era The Moose Tea Remix. This is Remake e quindi prima abbiamo ascoltato l'originale di Michael Jackson from the album Off The Wall del 1979, proprio un bel canzone, Rock With You. Allora noi prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, però torniamo con un altro grande americano, sto parlando di The Boss, it's Bruce Springsteen after the pubblicità. Me. Sad Eyes dell'anno scorso, bello questo brano, a me piace molto forse perché l'originale è scritto da Bruce Springsteen che noi abbiamo ascoltato, che viene dalla sua collezione di rarità, rarities, di nome Trax, bello questo Sad Eyes. Eh sì ragazzi, noi abbiamo gli occhi un po' tristi perché questa è l'ultima edizione di Remake prima dell'estate. Come ci potete lasciare così, dite voi? Pure Harold Melvin and the Blue Notes ha detto nel 1975 Don't leave me this way. Leave me this way. voi, liberatemi. Ecco, io adesso sono un po' free perché di domenica pomeriggio non ci sta più Remake. Mi dispiace un po', però non vi lascerò io personalmente, ragazzi, a Don't Leave Me This Way, come ha detto Jimmy Somerville insieme a Sarah Jane Morris and the Communards dal 1986. Prima di quello abbiamo sentito il grande numero uno from Thelma Houston, e per iniziare questo mix di Don't Leave Me This Way c'era la versione originale from Howard Melvin and the Blue Notes insieme a Teddy Prendergast. Allora, prima di andare voglio salutare Doriana che mi ha scritto: mi fa piacere che tu inglese quest'estate ti porta avanti. And Franco accanto a me è pronto per fare il suo top 50. Sì, anche perché oggi ascoltavano le prime 24 posizioni della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss Network, per cui sgombra, saluta, vai via. Perché è vero, okay. Devo andare. Allora ringrazio ad Aurelio, ringrazio a tutti quanti che mi hanno seguito su questo remake che torna a settembre. E il vostro suggerimento lo potete mandare al mio indirizzo email fergal@kisskissnetwork.it. Noi ci risentiamo, però in comunque dico buon estate, ragazzi. Liberatemi, ecco io adesso sono un po' free perché di domenica pomeriggio non ci sta più Remake. Mi dispiace un po', però non vi lascerò io personalmente.